A quest'anno torniamo con Flash Festival, che è intanto sempre organizzato dall'Associazione Orlando, l'Archivio e la Biblioteca delle Donne, insieme alla Libreria delle Donne, e quest'anno, grazie anche alla partnership con Unibo e Bologna Estate, torniamo a parlare di un tema che è tanti anni che vorremmo affrontarlo, e finalmente si parla di genealogie femministe, ovvero sappiamo che in un'epoca dove spesso il femminismo tende a dimenticare le proprie radici, noi cerchiamo di insomma trovare dentro Flash un punto di incontro, appunto per recuperare il rapporto con il passato, ma non in chiave nostalgica, ma invece vedendolo come appunto un ponte verso invece il futuro e anche una chiave di lettura per il presente, ecco. E per questo diciamo che come sempre la nostra fiera, che è composta poi da laboratori, talk, visite guidate, tante attività diverse, cercherà di indagare sempre meglio questo appunto che è il tema di quest'anno. Infatti volevo chiederti a livello poi del festival cosa si intende per genealogia, sia letterare che in editoria che politica. Le genealogie per noi sono recuperare appunto tutti i movimenti del passato, la storia passata, le filosofe, insomma tutte le parti, i movimenti, tutto ciò che ha fatto parte della costruzione del mondo femminista nel passato, e che sicuramente in questo momento, soprattutto a livello editoriale, diventa qualcosa di fondante e di fondamentale. Pensiamo alle genealogie femministe anche attraverso il recupero che fanno tante case editrici, che saranno presenti anche nella fiera, riscoprendo e riportando in catalogo autrici del passato che o erano andate fuori catalogo, oppure proprio nei nostri cataloghi italiani non ci sono mai state. Allo stesso tempo ci sarà un talk dedicato invece alle traduzioni e al portare le esperienze internazionali e transnazionali nell'editoria del presente. Quindi pensiamo a tutte le parti del mondo che magari sono sempre state un po', come dire, mal considerate dall'editoria. Però questo avviene anche attraverso, insomma, noi in Flash cerchiamo sempre di mescolare anche un po' la parte tecnologica, e infatti una delle attività che proponiamo, sia come laboratorio, ma poi ci sarà anche un talk dedicato, è quello dedicato agli archivi, perché appunto una parte importante dei movimenti passa attraverso la storia dei suoi archivi, che raccolgono le esperienze e le grandi raccolte dei movimenti, ecco. Quindi cerchiamo appunto di parlare di genealogia in maniera molto ampia, ma anche tenendo conto di tutte le esperienze che questa parola porta con sé. Cosa sarà in continuità rispetto alle scorse edizioni di Flush? Allora, in continuità ci sono chiaramente sempre le attività, appunto, perché la fiera è aperta sabato e domenica, quindi sarà possibile venire a visitare per incontrare appunto le case editrici che si occupano di progetti soprattutto femministi, ma anche tante autoproduzioni, perché pensiamo che insomma queste due facce della stessa medaglia siano assolutamente complementari. I laboratori di soprattutto quelli che tutti gli anni riproponiamo, anche di bibliomanzia. Ci saranno numerose visite guidate all'archivio e alla biblioteca delle donne, in modo che insomma anche questi spazi che di solito vengono frequentati magari tutti i giorni, come la biblioteca appunto, possano acquisire anche invece un occhio un po' diverso, proprio raccontato da chi tutti i giorni le vive. E in più chiaramente ci sono momenti di convivialità, ci saranno tanti spazi, questo sicuramente non mancherà dentro anche questa edizione. Tutto gratuito e insomma vi aspettiamo, perché anche quest'anno sarà veramente ricchissima questa edizione.